www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli un'altra mezzanotte si alterna a quella precedente, Kappa e Drago provano ad astrarsi. Astraiti? Non ci pensare, no. Astraiti. Non ce la faccio. Ma cos'è? Cos'è, Drago? Non stai ci riesco, calmo. Non ci riesco. Lo scotoma scintillante è più forte di tutte le immagini che posso creare con la mia mente. Calmati. Ormai hai il monopolio dei sogni e di tutto il resto. È sempre lì. È rotondo lo scotoma, come il riflesso della mia stessa pupilla, hai capito? Sì, però Drago, ti devi calmare. Poi cosa vuol dire il riflesso della tua stessa pupilla? Che è come se vedessi la mia pupilla dall'esterno. E sai cosa vuol dire quello? Cosa vuol dire? Vuol dire che lì dentro sta crollando l'impalcatura e io riesco a vedere il mio occhio, tanto la retina è staccata. Ecco, da cosa non lo so, ma è sicuramente staccata. Drago, capito? Ma non, tu non sai queste cose, staccata. Non sei un oculista, nemmeno un ottico, non è staccata. Drago, niente panico, per favore. No, adesso devi aspettare che la mutua dei polli ti faccia gli ultimi due esami. Punto. Dai, fra 2 o 3 mesi magari te li fanno e poi ti metti il cuore in pace. Devo fare la OCT e la FAG. Quando vado lì, sì, preciso, perché appunto, OCT è la tomografia ottica a radiazione coerente. Mentre la FAG è la angiografia a fluorescenza, detta anche fluorangiografia. Vabbè, vedo che Wikipedia funziona. Certo. E quindi ha superato l'Enciclopedia Britannica come numero di accessi al sito. Quindi direi che funziona benissimo. Ma tu ti devi astrarre, Drago, astraiti. Non pensare che hai una macchia grigia davanti all'occhio, astraiti. Sono sicuro che questa è una malattia psicosomatica. Cosa vuol dire? Tutte le malattie sono psicosomatiche, tutte. Ma è a forza di stare in fabbrica che mi vengono sti malanni, senza causa, senza cura. Così adesso devo reinventarmi una vita da cieco, capito? Perché non diventi un bluesman? Un bluesman? Ma sì, dai, tutti i più grandi bluesman delle origini erano ciechi. Vabbè. Ma come? Blind Willie McTell, cioè, Blind Lemon Jefferson, Blind Joe Reynolds, Blind Ray Charles. No. Blind Ray Charles. Ray Charles era Ray Charles, come Andrea Bocelli, non è mica Blind Andrea Bocelli. Cos'è? Ma, non si può dire che Bocelli è cieco, Drago. Ma no. No, bisogna dire che è videoleso. Ah, videoleso. Oppure fai finta di niente, va bene. Dai, Drago, tu sarai Blind Chicken Drago. Blind Chicken Drago. Bene, bel nome, dai. Che canta Shining Scotoma. No, ma perché? Bellissimo, Drago, un blues classico. La storia di un uomo che si sveglia la mattina cieco e che quindi piscia nel frigo. I got up one morning with a flash in my eyes. It wasn't the sun, I was fucking blind. I got up shining scotoma, I can't see a shit. A shining scotoma, I pissed in my fridge. Shining scotoma puts you in a coma. Wear a pajama, take a banana or a salama and stick it down in your ass. La fabbrica di polli. Sono cieco, Pollo, e quindi canto il blues. È una specie di sillogismo di Kappa, Un sillogismo chiarissimo. È che dice così: qualche bluesman è cieco, Drago è quasi cieco, Drago è un bluesman, capito? Qualche quasi. Capito, no? Dire. Non hai capito? No, perché allora, se qualche pollo non ha il becco e io sono un pollo, allora io non ho il becco? No. Oppure, attenzione, allora, se qualche pollo non ha il becco, io invece il becco ce l'ho, perché voi lo sapete che io il becco ce l'ho e che becco, Allora io non sono un pollo? Ma vedi, capa, ha ragione il pollo. I sillogismi non funzionano perché ognuno può metterne in piedi uno storto e usarlo ai propri adesso fini. Adesso facciamo l'Accademia della Logica con un pollo e con uno cieco. Tu, Drago, non devi pensare ai sillogismi e alla logica. Tu pensa a fare il bluesman, canta e non ti preoccupare. Sì, ma per fare il bluesman dovrei essere negro. Quindi come faccio il blues? Beh, ma come il pollo, pollo, scusa, ma Tarek, ma come cosa? Ma anche Tarek, cosa ma siete successo? Tutti e due marroni. Ma cosa? Come? Cosa? Ma come cosa? Com'è cosa? Beh, per forza, no? Siamo sempre stati marroni. Ma no, ma cosa dici, pollo? Eravate bianchi. Bianchi? Sì, ma sì, normalissimi polli bianchi da batteria, me lo ricordo bene. Ora sembrate due gentilpolli di campagna, marroni con la cresta rossa. Cosa vuoi? Ma noi siamo due gentilpolli di campagna, Cosa state piacicando? Polli, sì, ma perché ci avete preso? No, dai, pollo, dai, abbiamo capito. Vi siete tinti per essere alla moda, perché adesso va molto essere marroni. Ah. Capito? Basta dirlo. Ma no, ma che tinti! Si vede, si vede. Ma scusa, noi siamo sempre stati marroni? Questo è il nostro colore naturale. Solo che ogni tanto ci andiamo in giro, ci facciamo giretti all'aria aperta, no? E vi vengono le piume marroni. A becchettare un po' di mangime sano. Ma cosa dici? Ma quali cortili, quali mangime sano? Voi fate parte dell'arredamento della fabbrica, non uscite mai di qui. Se vedete il mondo di fuori è solo attraverso il buco nel muro di cinta, quello dove si vede la tangenziale, tutto qui. Ma no! Cosa ma no? Siete voi due che vi sbagliate, Ma voi due, a furia di vedere polli bianchicci e smorti, non vi siete mai resi conto che io e Tarek, bianchi bianchi, non eravamo mica. Vabbè, no, ma scusa, ma come eravate allora, beige? Magari non beige, ma beigini. Beigini, beigini, no? Che a prima vista ti può sembrare pure bianco. Ma poi tu, Drago, scusami, non sei mica cieco. Infatti, sì, Blind Chicken Drago è cieco. Dove siamo? Portando? Drago, io però non sono cieco. Voi adesso siete marroni, prima però eravate bianchi. Quindi basta questa storia, perché veramente non se ne può più. Ne riparleremo quando avrete la crescita bianca, perché quella lì è la resa dei conti per tutti quelli che fanno ricorso alla tintura per piume, diciamo così. Marrone! Ma che marrone? Marico, mano, Gianna, trucca a me. Fammi le zinne della Hunzinge, fammi la bocca della Basinge, fammi il ciuffetto come Ratzinge, che devo andare a parlare, a ballare, a frignare, a litigare, a scallettare dentro al pollaio de Marì. Me vedi, mamma, sono qui, dentro al pollaio de Marì. La fabbrica di polli. Flannery O'Connor. Chi? La scrittrice. Ah, sì, quella del sud. Anche lei, anche lei. Allevava polli e pavoni, come Himmler. Himmler allevava anche i piccioni, insomma. No, forse anche lei. Comunque, prima di finire qua dentro, io queste cose non le avrei mai notate. Perché cosa? No, che c'è gente che alleva polli per diletto. Sai che ce ne sono tanti. Leggendo le biografie scopri che proprio i più grandi del mondo hanno allevato polli, sì, uccelli. Sì, ma la O'Connor, Flannery O'Connor, cucinava per i polli. Tenti forte. Confezionava abiti per i polli. Ma come? Faceva il cappottino per i polli. E d'altra parte una scrittrice americana, cattolica, che vive in campagna, cosa può fare quando non scrive? Alleva uccelli. Ah, beh, sì. Quando la O'Connor comperò il suo primo pavone, aveva già un recinto di fagiani, uno di quagli, un gruppo di tacchini, ma mica se le mangiava. No, scusa. 17 oche, anche le oche volendo, una tribù di anatre. Una tribù addirittura. Tre polli bantam giapponesi, che quelli, due crestati polonesi, e poi diversi gallinacei, che erano appunto il risultato di incroci tra i polli polonesi e un pollo del Rhode Island Red. Sì. E poi che cosa è successo? No, poi a 40 anni è morta. È morto. E i polli? I parenti della O'Connor se li saranno spartiti, li avranno mangiati uno dopo l'altro, però non lo so. Anche i polonesi, anche i bantam giapponesi. Cannibali! Che cosa succederà adesso? Anche Flannery O'Connor avrà una parte principale nella fabbrica di polli dopo quella recitata da Georg Büchner? E se sì, a quanto un bel libro della fabbrica? Per saperlo dovrete prima ingoiare una brutta sorpresa. Poiché la fabbrica domani notte resterà chiusa, ma riaprirà dopodomani a mezzanotte su Radio 3 con il prossimo bibliomaniaco allestimento de... La fabbrica di polli produce... Non muoce quasi mai... La